giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Continua l'emergenza incendi in regione con diversi focolai ancora attivi. Un lungo fronte di fuoco arriva fino a Rupa. Collegamenti difficili con Trieste. La città è alimentata da un distributore di energia elettrica sloveno. Comuni evacuati e altri in preallerta. Il fuoco e il fumo tormentano il territorio, soprattutto il Monfalconese, dove è piovuta cenere. Fincantieri ancora chiusa. A Iamiano, vera e propria odissea per i residenti. Grossi problemi anche in Friuli. Semisolata la Val Resia, mentre un nuovo incendio è scoppiato questa notte a Pulfero. Disagi al traffico autostradale e ferroviario. L'autostrada A4 rimane ancora chiusa tra Sistiana e Redipuglie. I mezzi pesanti anche stamane vengono deviati a Villesse e poi a Gorizia. La circolazione dei treni fra Trieste e Monfalcone interrotta dovrebbe riprendere solo in mattinata. La giunta regionale ha approvato nuovi emendamenti che stanziano ulteriori 35 milioni e 800 mila euro nella manovra estiva di bilancio che approderà la settimana prossima in consiglio regionale. Guida e abuso di alcol e sostanze. Nuovo progetto del comune di Pordenone coinvolge le scuole con attività di prevenzione. Salvataggi, sicurezza in mare, tutela ambientale sono le linee guida dell'attività della Capitaneria di Porto di Trieste, illustrate dal comandante Vincenzo Vitale per i 157 anni della istituzione. Le 7:19 minuti e 40 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearzi e Lorenzo Gerlinzoni per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 21 luglio. Prima di cominciare, come sempre, diamo uno sguardo all'attuale situazione del meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 5. A Trieste ci sono 25 gradi e 5 decimi, il mare è calmo con temperatura di 26 gradi. A Pordenone 20 gradi e 5 decimi, a Gorizia 19 gradi e 5 decimi, a Udine 18 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 21 gradi, a Forni di Sopra 17, a Tarvisio, Piancavallo e Sappada 14 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 17 gradi, a Grado e Lignano 23 gradi e 5 decimi e la temperatura del mare qui è di 26 gradi. E per le previsioni meteo delle prossime ore sentiamo nel dettaglio Sergio Nordio dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime ore della notte abbiamo avuto un notevole abbassamento delle temperature negli ultimi strati d'aria vicino al suolo. E dopo le massime di ieri, che hanno toccato i 36 gradi sulla pianura e i 33 gradi sulla costa, abbiamo registrato poco fa valori decisamente freschi nelle ore notturne, quindi fino a 16-17 gradi in pianura, intorno ai 25 sulla costa. Qui c'è stata una notevole escursione termica dovuta all'aria molto secca e si è formata anche inversione termica nei bassi strati, infatti appena sopra diciamo il suolo, già a 200 metri di quota, le temperature erano ancora intorno ai 28 gradi, quindi proprio un abbassamento solo negli strati d'aria vicino al suolo. Poco vento stanotte, a regime di brezza, quindi pochi diciamo ventilazione sulla regione, un po' leggermente più accesa nella zona di Trieste, come spesso accade in discesa dal Carso, mentre sulla pianura i venti erano di pochi chilometri orari, con una componente in prevalenza da nord-est. Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore? Come evolverà la situazione meteo in giornata? L'anticiclone è ancora presente in maniera ben stabile sulla regione, anche se i valori di pressione sono in leggero calo per l'avvicinamento di un debole fronte. Debole fronte che probabilmente si sentirà solamente sulla zona alpina, proprio sui settori più settentrionali della Carnia verso l'Austria, dove nel corso del pomeriggio è atteso qualche locale temporale. Difficilmente i temporali potranno giungere anche sul resto della regione, vista appunto la condizione comunque di aria anche molto secca che in questo momento è ancora presente. Nel corso delle prossime ore probabilmente riprenderanno i venti a regime di brezza locale, diurna, quindi sulla costa si sentirà un po' più di vento in provenienza da sud-ovest, nella fascia costiera, diciamo compresa tra Monfalcone e Grado, e un vento invece da ovest-nord-ovest nella zona di Trieste. In pianura venti in prevalenza da sud-ovest, un po' più attenuati, e quindi un po' di regime diciamo normale diurno che aiuterà anche un po' il rimescolamento dell'aria. E proseguono ininterrotte intanto le operazioni di spegnimento dei numerosi incendi che sono ancora attivi sul Carso Goriziano e Triestino. I fronti maggiori sono a Devetachi, Sablici, Iamiano nel comune di Doberto del Lago e soprattutto da questa notte di nuovo Medeazza nel comune di Duina Orisina. L'incendio quindi non è ancora del tutto circoscritto, ma il fronte delle fiamme nelle ultime ore si sta dirigendo oltre confine con la Slovenia. Per tutta la notte ha continuato a operare un centinaio di vigili del fuoco da tutti i comandi provinciali della regione, insieme a una ventina di operatori del Corpo Forestale Regionale e una trentina di volontari dell'antincendio boschivo della Protezione Civile, supportati da squadre dei Vigili del Fuoco sloveni. A partire dalle 6:30 si sono rialzati in volo anche i primi mezzi aerei antincendio. Oggi dovrebbero esserne operativi 11, 2 Canadair e 9 elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. E da quanto comunicato all'esito del vertice di ieri sera in prefettura Gorizia, la situazione pur nella sua complessità è sotto controllo. I vigili del fuoco hanno spiegato che resta una sorta di incendio di brughiera con numerosi focolai che però non raggiungono la gravità dei giorni precedenti. Disagi nella notte per il fumo aumentato a causa della bassa pressione che consiglia di limitare le uscite, indossare soprattutto nelle aree più prossime al fronte delle fiamme la mascherina FFP2 all'aperto. Dal punto di vista della viabilità si sta lavorando per la riapertura della carreggiata in direzione Trieste proveniente da Venezia tra Villesse e Lisert, ma la decisione sarà presa solo questa mattina. A Monfalcone aria ancora irrespirabile, anche se la situazione è in netto miglioramento. Nella notte le PM10 nell'aria hanno toccato quota 210. Questa mattina il dato è sceso ed è a 102, ancora sopra i livelli massimi consentiti, che sono di 50, ma ricordiamo solo che ieri mattina alla stessa ora il dato faceva registrare un valore di 1600. Confermata pertanto per oggi l'ordinanza della sindaca Cisinte con l'obbligo di mascherina FFP2 all'aperto. Si chiede ai cittadini di uscire solo se strettamente necessario. E Fincantieri anche oggi rimane chiusa. Il comune monitora costantemente la situazione con ARPA, Asugi e Protezione Civile. In merito alla situazione della qualità dell'aria, l'assessore Scoccimarro ha reso noto che ARPA FVG ha posizionato, vista la situazione, il contaparticelle mobile a Duino. Il monitoraggio prosegue con aggiornamenti sui valori e con particolare attenzione a Monfalcone, Duino e Grado. L'ultima rilevazione nella stazione Aria Verde di Monfalcone aveva mostrato ieri sera dati comunque sotto la soglia di sicurezza, lo abbiamo detto. ARPA FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle per PM10 di 50 microgrammi per metro cubo. Il vicepresidente della regione, assessore con delega alla Protezione Civile Riccardi, ha reso noto che il Dipartimento Nazionale ha messo in campo tutti gli strumenti a disposizione e ha fatto richiesta anche in sede europea per attivare il meccanismo di solidarietà per ottenere ulteriori mezzi. E al momento sul fronte dei trasporti l'autostrada A4 rimane chiusa tra Sestiana e Re di Puglia, i mezzi pesanti anche stamani vengono deviati a Villesse e poi a Gorizia, però come dicevamo poco fa si sta svolgendo in questi minuti un vertice per decidere se riaprire in giornata almeno parzialmente l'arteria autostradale, in particolare la carreggiata di ingresso verso Trieste. Tutto dipende ovviamente dalla situazione del fronte del fuoco e dal vento. Solo in un secondo momento si valuterà l'eventuale riapertura della carreggiata della 4 in direzione invece di Venezia, quella che corre più vicina al fronte dell'incendio. Al momento non ci sono però né code in autostrada né sul raccordo. E si pronuncia una nuova giornata difficile dunque dal punto di vista dei trasporti, nonostante il blocco ferroviario e la chiusura della gran parte delle arterie tra Monfalcone e Trieste, compresa l'autostrada. Si è comunque riusciti a organizzare alcuni servizi sostitutivi fondamentali che hanno aiutato le persone a spostarsi in questo momento di difficoltà. In particolare il servizio marittimo organizzato in collaborazione con TPL, FVG e Trenitalia ha consentito ieri pomeriggio pomeriggio ai passeggeri di potersi imbarcare ogni ora da Trieste per Monfalcone e viceversa. Poi gli autobus dell'APT di Gorizia hanno consentito l'arrivo alla stazione di Monfalcone, dove i viaggiatori sono saliti sui convogli in attesa. Anche da Duino Trenitalia è riuscita a organizzare un servizio di spola. In questo modo, è detto in una nota dell'assessore ai trasporti Pizzimenti, è stato possibile bypassare il problema dell'intasamento della strada 14, l'unica a collegare Monfalcone con Duino Auresina e fortemente congestionata. Per quanto riguarda il resto della viabilità, la strada statale 14 al momento non risulta essere fortemente congestionata. Rimangono invece chiuse la 55 del Vallone, le 518 e 519 che portano i valichi di seconda categoria di Iamiano e Devetachi. Si sconsiglia di mettersi in viaggio nelle zone circostanti. L'incendio, in particolare lungo la ex provinciale 15, che arriva proprio a Devetachi, i valichi sono comunque chiusi. E come dicevamo, sono forti i disagi anche sul traffico, sul fronte ferroviario del traffico. La circolazione dei treni fra Trieste e Monfalcone è interrotta e dovrebbe riprendere solo in mattinata. Il fuoco sta tagliando i collegamenti fra Trieste e Monfalcone. Oltre ai forti disagi al traffico stradale, anche quelli ferroviari. La circolazione dei treni è rimasta interrotta. Gli incendi potrebbero aver causato danni all'infrastruttura ferroviaria e quindi saranno sicuramente necessarie delle verifiche prima di una possibile riapertura. Dei bus navetta permettono il collegamento, lo snodo e la stazione Bivio Auresina. I viaggiatori sono pendolari, ma anche turisti. Può succedere, è capitato e mi dispiace per il bosco e per il carso. Comunque complimenti per l'organizzazione, è eccezionale. Ho visto. Capiamo che è un'emergenza e essendo un'emergenza ci adeguiamo alla situazione. Poi tutte le cose che succedono all'improvviso non è facile gestire, insomma, quindi c'è stato più di qualche disguido, però insomma hanno fatto meglio che hanno potuto. Da qui a Trieste è attivo un servizio di spola con treni. Alla stazione di Auresina agenti della polizia ferroviaria e operatori di Trenitalia danno supporto ai viaggiatori. Staziona un treno come carro ristoro e servizio bagni ed è attivo anche un servizio marittimo fra Trieste e Monfalcone. Il Delfino Verde con partenze alle 14:17:20 dal Molo Audace a Trieste e da Porto Rosega alle 15:30 e 18:30. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Attualmente la città di Trieste è alimentata da un distributore di energia elettrica sloveno, lo ha reso noto la prefettura di Trieste in serata con una nota che fa il bilancio della situazione, sottolineando che da ieri nella stessa prefettura è stato attivato il comitato operativo per la viabilità per monitorare la situazione della viabilità stradale, autostradale e ferroviaria. La prefettura ha indicato che il gestore del distributore di energia elettrica sloveno ha fatto sapere che tramite bypass disponibili è al momento in grado di gestire eventuali rischi di interruzione della fornitura. Eventualmente la fornitura dell'acqua dall'acquedotto verrebbe comunque assicurata con l'impiego di gruppi elettrogeni ed autobotti. E questa emergenza incendi è una emergenza che unisce Italia e Slovenia. Il fronte più delicato del fuoco si estende da Rupa alle porte di Gorizia fino a Medeazza in comune di Duino Auresina. Dal capoluogo isontino si scorge decisamente il fumo che si leva dai monti sopra la slovena Merna, in parte evacuata, e Rupa. È stato questo uno dei focolai più attivi delle ultime ore di una giornata già molto difficile. Gli abitanti della frazione di Savogna di Sonzo hanno visto le fiamme davanti all'abitato, che però non è stato mai minacciato direttamente dalle fiamme. Per il resto è stato un pomeriggio di relativo controllo del fuoco sulla parte italiana, il pomeriggio di ieri, mentre è drammatica la situazione sul versante sloveno con diversi paesi evacuati. Nonostante ciò, una squadra di vigili del fuoco sloveni sono arrivati in aiuto dei colleghi italiani, i roghi rimangono attivi in più punti, l'allerta rimane alta, molti sindaci hanno emanato ordinanze per l'utilizzo di mascherine FFP2 all'aperto, lo abbiamo sentito, un problema anche è l'esplosione di ordigni, il pericolo dell'esplosione di ordigni bellici risalenti alla Grande Guerra. Ricordiamo che parte della zona interessata dal fuoco fu teatro delle sanguinosissime 12 battaglie dell'Isonzo. Per i vigili del fuoco duro lavoro tutta la notte a Gorizia, turni raddoppiati per gli effettivi coadiuvati da volontari e forestali. L'abitato di Iamiano ancora sotto la minaccia del fuoco, difeso dai pompieri. Da Trieste è arrivato in rinforzo 17 uomini, mentre le stazioni in Friuli sono impegnate in Valresia. Evacuato anche il centro civico di Doberdò del Lago, che ospitava gli sfollati di Iamiano. Le persone si sono recate a passare la notte in centro a Doberdò. Tante famiglie hanno portato anche i cani per la compagnia, il sindaco di Doverdò ha precisato che non è un'evacuazione, che il paese al momento è al sicuro. L'abitato di Amiano intanto ancora, comunque come dicevamo, sotto la minaccia del fuoco. I fronti del fuoco si sono saldati in una linea con rari punti di tregua. Ieri a bruciare è stato tutto il territorio tra Rupa, in provincia di Gorizia, vicino al confine sloveno, e scendendo verso sud il casello autostradale dell'Isert. Nella mattinata il fuoco è piombato all'improvviso su Amiano, frazione del comune di Doverdò del Lago. 200 persone hanno dovuto lasciare di corsa la propria casa in pericolo per le fiamme. Sono state accolte al centro gradina, ma il fuoco li minacciava anche qui. Prenderete con calma le macchine o vi farete accompagnare e andremo in centro del paese, che per adesso è più sicuro. Gli abitanti di Amiano sono ora accolti in centro a Doverdò, da dove sperano di tornare presto a casa. Devo scoppiare i vetri. Sono scoppiati i vetri. Scoppiati i vetri perché per fortuna che i serramenti in alluminio, se no c'appava fuoco la casa. Il fumo, spinto dal vento, è arrivato poi anche sopra il territorio del comune di Duino a Orisina. Le fiamme si sono avvicinate a Medeazza, dove il sindaco ha preallertato gli abitanti all'eventualità di lasciare le case. In via precauzionale c'è anche chi ha tagliato gli alberi. Il problema non è il nostro, come noi personalmente, ma io ho 11 bestie in stalla e sicuramente non le lascio qui legate alla mangiatoia per andare via, quindi... Il fronte del fuoco si è spostato dunque verso Sistiana. L'aria è stata irrespirabile a Monfalcone, Sagrado, Savogna, Staranzano e Duino Orisina. In tutti questi comuni sono in vigore ordinanze che stabiliscono l'obbligo di mascherina FFP2 e consigliano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. A Monfalcone i livelli di PM10 monitorati dall'ARPA, altissimi durante la notte, sono tornati dalle 13 sotto la soglia di 50 microgrammi per metro cubo, limite giornaliero. Ma dalle 16 del pomeriggio il vento è girato e essere stata invasa dal fumo è stata la zona di Gorizia. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E oltre agli incendi che stanno devastando il Carso, altri roghi sono divampati in Friuli, interessando in particolare la Val Resia tra Resia e Risiutta. L'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri proprio ai bordi della provinciale 42 ha costretto le autorità a chiudere la strada, che è tuttora interrotta. Resia quindi è al momento ancora isolata. Due le difficoltà nel domare questo incendio: il vento che spinge le fiamme fin verso la cima del monte e la presenza di un solo mezzo aereo. A dar manforte alle squadre di terra un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Bologna. L'ipotesi è quella di un rogo colposo o doloso, ma non certo naturale. Sentiamo la prima cittadina di Resia, Anna Miceli. Noi 20 anni fa abbiamo già avuto una situazione analoga. In questo momento siamo bloccati sia verso Resiutta sia verso la valle di Occea, perché abbiamo dei lavori sempre della protezione civile. Quindi io sto chiedendo pazienza ai miei concittadini di restare tranquilli, che la situazione verrà risolta, ma in questo momento ci vorrà del tempo per risolverla. Stiamo gestendo delle situazioni, diciamo, di emergenza, e poi piano piano cercheremo di sistemare tutto quello che sta succedendo al meglio. Ci vuole pazienza. Si parla di qualche giorno, qualche ora di chiusura, ancora non si sa? Non si sa, verosimilmente qualche giorno, perché domato l'incendio bisognerà effettuare una bonifica dell'area, perché stanno cadendo dei sassi e questo comporterà del tempo. Bisognerà vedere adesso anche con la protezione civile regionale qual è l'alternativa per garantire la sicurezza e un decorso della vita normale alle persone che in questo momento sono in valle e a chi deve rientrare. Abbiamo visto il sindaco di Resiutta che veniva a portare dei medicinali su in valle. Esatto, esatto. Questo significa interrompere tutto quello che è nella normalità. Dovevano arrivare i medicinali, ma il camion è stato fermato proprio perché non c'è abbastanza sicurezza. Per cui tutti ci stiamo dando da fare per garantire la sicurezza minima e le necessità minime, anche e soprattutto in emergenza, per le persone. E arriva la notizia di un ennesimo incendio boschivo di una certa entità, come segnalano fonti della Protezione Civile, che è scoppiato nella tarda serata di ieri nella zona di Pulfero, anche qui proprio al confine con la Slovenia. Gli operatori sono sul posto per arginare le fiamme. E dopo questa ampia pagina dedicata all'emergenza incendi, cambiamo argomento e parliamo dei contagi da coronavirus con l'ultimo aggiornamento sulla pandemia. Ieri i contagi registrati sono stati 2.292 in regione su oltre 9.500 tamponi effettuati, contagi in calo rispetto a martedì, ma sono stati eseguiti meno test, il tasso di positività è del 24%. Sono 6 ricoverati in terapia intensiva, uno in meno e 289 quelli in altri reparti, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti. 3 i decessi, sale di poco l'incidenza di nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti, ora a 1.123. La Giunta regionale ha approvato nuovi emendamenti che stanziano ulteriori 35,8 milioni di euro nella manovra estiva di bilancio che approderà la settimana prossima in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Viene così portata la dotazione complessiva a 792 milioni di euro. Fra i nuovi interventi, garantito un primo stanziamento di 20 milioni di euro per la riqualificazione di Punta Sud nella zona industriale di Aussacorno per consentire la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale. A ciò si aggiungono i 7 milioni di euro per opere infrastrutturali aggiuntive all'intervento già finanziato per il PNR, con il PNRR per Borgo Castello a Gorizia e ulteriori 2 milioni quali anticipazioni ai cluster per i programmi culturali. Si prevede inoltre l'acquisto degli immobili di Porto Vecchio da destinare a sede degli uffici regionali con 11 milioni, a cui si aggiungono 10 milioni e mezzo dal Comune di Trieste per la valorizzazione dell'area. Infine, per la manutenzione straordinaria dei centri diurni di Maniago, Spilimbergo, Sesto al Reghena e Zoppola vengono destinati complessivamente 1 milione di euro e 575 mila. Gli emendamenti approvati nella riunione di giunta odierna di ieri sono stati illustrati nel corso della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali. Giornata di mobilitazione del mondo del lavoro in provincia di Trieste, quella di oggi, a sostegno dei 450 dipendenti della Varzila di Bagnò di Losandra e delle centinaia di lavoratori dell'industria. Dopo l'annuncio da parte dell'azienda della chiusura dell'impianto produttivo giuliano, il sindacato di base USB ha indetto per la giornata odierna lo sciopero generale cittadino per tutte le categorie del lavoro privato, una manifestazione che si affianca, nel nome dell'unità di tutti i lavoratori, a quella promossa da CGIL e CISL e UIL che questo pomeriggio alle 15.15 terranno un presidio di lavoratori in piazza Unità d'Italia davanti alla prefettura. Nel complesso in provincia di Trieste sono a rischio non meno di 1.200 posti di lavoro. Il presidio doveva avvenire in contemporanea con l'audizione in decima commissione industria del Senato alla prefettura di Trieste, durante la quale dovevano essere ascoltate le confederazioni territoriali delle 3 sigle sindacali in merito alla situazione occupazionale del territorio, ma l'appuntamento è stato annullato in seguito agli ultimi sviluppi politici e istituzionali accaduti ieri a Roma in Senato. La politica locale, i componenti di Adesso Trieste che siedono nel Consiglio Comunale del capoluogo giuliano, Riccardo La Terza, Giulia Massolino e Kevin Nicolini, incontrano oggi i cittadini per rendere conto del lavoro portato avanti negli ultimi mesi, soprattutto in merito al rafforzamento del sistema degli asili nido, penalizzazione e ciclabilità della città. Sarà anche l'occasione per discutere in maniera collettiva dell'impegno politico di Adesso Trieste. L'appuntamento è per 18.30 in piazza Puecher. E ora la cronaca: era uscito il giorno precedente dal carcere di Vicenza, dove aveva scontato una condanna per rapine. L'uomo trovato cadavere all'interno della stazione del Pullman di Vicenza. Si tratta di Stefano Nocendi, Palmanova. Secondo la procura, in attesa dell'esito dell'autopsia, non è possibile stabilire con certezza che si tratti di un omicidio. La vittima, trovata a terra in posizione innaturale, con le braccia aperte e le gambe divaricate, presentava una frattura al naso ed escoriazioni agli arti. Nel momento del ritrovamento non aveva con sé documenti per poter essere identificato. È stato identificato il conducente del veicolo che nella serata di giovedì 17 luglio aveva percorso Corso Vittorio Emanuele II a Pordenone in controsenso di marcia. Si tratta di un cittadino straniero residente ad Aviano. Si è riunito il comitato di pilotaggio sulla sicurezza con la partecipazione anche della direzione salute dei referenti regionali dell'INAIL per l'illustrazione dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dal 2016 al 2022. 5 le principali linee di intervento, ha spiegato l'assessore al lavoro Rosolin, che comprendono azioni di programmazione in materia di cooperazione e scambio informativo per la cultura e la legalità nei luoghi di lavoro, interventi a favore delle casse edili per progetti in materia di sicurezza, percorsi per la promozione e la diffusione di buone prassi per lo sviluppo della responsabilità sociale di impresa del secondo welfare, percorsi formativi e azioni di sensibilizzazione rivolte a studenti e docenti in tema di sicurezza sul lavoro. 157 persone portate in salvo, 426 ispezioni effettuate che hanno portato al sequestro di 264 kg di prodotto ittico, più di 5.300 gli interventi di prevenzione dell'inquinamento marittimo. Sono questi alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annuale della Capitaneria di Porto di Trieste, presentato in occasione dell'anniversario del corpo, fondato 157 anni fa. Ma sentiamo il direttore marittimo di Trieste, Vincenzo Vitale, intervistato da Biagio Ingenito. 157 anni di attività per il prossimo, sicurezza in mare come declinazione assoluta, dove possiamo far rientrare tutte le nostre funzioni che vanno dal salvataggio, quindi quello, se vogliamo, più nobile per la salvaguardia della vita umana in mare, quella ambientale che oggi si propone come la sfida generale, quello della tutela della pesca e di conseguenza sia delle specie che del consumatore, e poi quello tradizionale che vogliamo, che è quello della sicurezza navigazione, naviglio, e quindi naviglio sicuro oggi, altamente tecnologico, ma da noi controllato in ogni punto, sia quello nazionale che quello che viene certificato, sia quello internazionale di passaggio, e sportello generale per i marittimi, di cui la Capitaneria è la nostra casa, e per tutta l'utenza che d'inverno e d'estate pratica il mare, e quindi per gli usi civici in assoluto del mare come risorsa della comunità internazionale. Rispetto a quelle che sono le dimensioni nazionali, la regione Friuli Venezia Giulia dal punto di vista marittimo è quella più piccola ma impegnativa, con un grande porto, e quindi un rapporto annuale con una declinazione locale che è commisurato in ogni caso perché l'impegno è notevole. A Pordenone nasce una iniziativa per sensibilizzare gli studenti ai pericoli della guida in stato di ebbrezza. Si chiama Vado sul sicuro, il nuovo progetto del comune di Pordenone, che ha come obiettivo la diminuzione degli incidenti legati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Grazie a un contributo di 300.000 euro ottenuto dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno realizzati una serie di interventi rivolti in particolare ai giovani, in collaborazione con la Prefettura, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'azienda sanitaria. Sono previste specifiche attività di prevenzione in 11 scuole superiori del territorio per sensibilizzare la fascia 14-18 anni sui rischi alla guida legati all'eccesso di velocità o all'abuso di alcol e droghe. Emanuele Loperfido, vice sindaco di Pordenone. Entreremo nelle scuole coinvolgendo 10.000 studenti e con un'attività particolare, ovvero l'utilizzo di un simulatore acquistato per l'occasione, dove gli studenti potranno effettivamente provare cosa significa guidare in stato d'ebbrezza e capire quanto effettivamente può essere pericoloso abbassando il livello di guardia mentre si conduce un veicolo. Una campagna di comunicazione sarà rivolta anche ai giovani adulti 18-29 anni con la collaborazione del Consorzio Universitario Pordenonese e attività nei luoghi di aggregazione. In un'ottica di contrasto saranno poi aumentati i controlli su strada. Il progetto ha la durata di un anno. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.45 minuti e 27 secondi parliamo di sport, calcio, ultime notizie dal calciomercato. Il Pordenone ha annunciato la cessione del difensore Michele Camporese alla Regina, mentre la Triestina ha annunciato l'acquisto del 21enne centrocampista Alessandro Lovisa, figlio tra l'altro del presidente del Pordenone. Arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina, la scorsa stagione ha giocato in B proprio con i neroverdi. Al via oggi il Festival Onde Mediterranee a Gradisca di Sonzo. La manifestazione si snoda attraverso musica, incontri e personaggi in un contesto di riflessione poliedrico che vuole concentrarsi sulle possibili azioni, le urgenze, i bisogni del contemporaneo. Tanti gli appuntamenti da qui fino al 30 luglio. Questa sera si comincia col filosofo Umberto Galimberti al Teatro Comunale alle ore 21. Sentiamo dal direttore artistico Giancarlo Vellischig che cosa ci riserva questa 26esima edizione. La manifestazione vive di due significative componenti, quella musicale è quella più dedicata all'approfondimento dei vari temi che sono in realtà culturali, sociali, letterari, eccetera, di una cultura mediterranea di cui insomma la nostra regione è un punto non insignificante, nel senso che siamo al capo nord del Mediterraneo, quindi siamo un territorio, lo diciamo da sempre, da 26 anni, che vive tra la cultura mitteleuropea e nordeuropea e quella mediterranea del sud del mondo, e questo ci piace come caratteristica fondamentale di questa manifestazione. Umberto Galimberti aprirà questa serie di appuntamenti e da qui poi continueranno con altre figure significative come Angelo Floramo, come Paolo Rumiz, e chi più di lui può rappresentare culturalmente questo territorio con la sua, col suo canto per Europa. Poi c'è la parte musicale che invece vivrà di significativi concerti che faremo nell'arena del castello di Gradisca dal 27 al 30, in una successione molto attente di gruppi musicali molto diversi, ecco, ma tutti con un legame culturale. Parliamo di Manuel Agnelli, parliamo dei Nomadi, parliamo di Willy Peyote, sono di diverse generazioni tutti e tre, e poi avremo anche un'ultima serata che è dedicata al dramma e alla vicenda e alla necessità sempre più pressante di trovare giustizia e verità per Giulio Regeni, con un incontro con la famiglia, con l'avvocato, con una schiera anche di intellettuali che poi chiuderanno la serata con altra musica, con Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo Bertoli e Dorogliatto. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena di allegria io trovo dentro. Il trio vocale più famoso del mondo fa tappa questa sera a Palmanova. Parliamo del Volo, il gruppo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, vincitori del Festival di Sanremo nel 2015. Da allora i tre ragazzi hanno letteralmente preso il volo con tournée in tutto il mondo, acclamati dai fan e dalla critica, celebri per i loro timbri musicali, due tenori e un baritono, e per la reinterpretazione di celebri brani musicali in chiave pop opera nel più classico degli stili musicali italiani. I tre sono tra i primi artisti italiani ad avere firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen Records. A Palmanova il Volo porterà alcuni dei brani tratti dal loro ultimo disco, Il Volo Sings Morricone, un tributo al grande compositore scomparso due anni fa. Quello che stiamo sentendo in sottofondo è proprio una delle tracce di questo album, si intitola Se, ed è, e lo avrete riconosciuto, il brano simbolo del capolavoro di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, la cui colonna sonora fu firmata proprio da Ennio Morricone. Appuntamento allora questa sera sul palco allestito in Piazza Grande alle ore 21:30. Alle 7:50 minuti cominciamo dalla segna stampa di oggi con il piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone. In prima pagina la fotonotizia con il fronte dell'incendio in movimento, nuovi evacuati, traffico in crisi, allarme polveri, sindaci, state a casa, all'aperto mascherine FFP2. Il vento rende la sfida difficile, le fiamme vicine a Gorizia e a Amiano, paesi svuotati, le nostre case in pericolo, la paura degli abitanti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni minacciate dal rogo di incendi. Nelle nostre zone ce ne sono stati tanti, dicono gli abitanti, ma una violenza simile non si era mai vista. La nube nera su Monfalcone, rifiuti in strada, città deserta, piove cenere, allarme PM10 a Monfalcone, obbligo di FFP2. La sindaca Cisinter, restate in casa, Fincantieri lascia a casa 1600 operai, stop in porto, poi la via del mare con il delfino verde che fa la spola con Trieste. A fondo pagina l'Isonzo in siccità, pesci in una buca troppo profonda, salvataggio rinviato, i mezzi del consorzio di bonifica avevano creato le rampe d'accesso, i camioncini di recupero dell'ente tutela patrimonio ittico, dotati di vasche ossigenate, erano pronti a fare la spola. Si lotta contro il fuoco, brucia anche il Friuli, il titolo del Messaggero Veneto, che in prima riporta una fotonotizia che ritrae un pompiere di notte la cui sagoma nera si staglia contro il giallo e il rosso dell'incendio. Roghi scoppiati nella giornata di ieri anche a Drenchia e Risiutta. Anche qui poi c'è spazio dato alla crisi di governo, ormai è molto probabile che si vada verso elezioni anticipate. In taglio alto la cronaca locale, infortunio a San Giovanni al Natisone, operaio travolto dal muletto, l'incidente è avvenuto nella ditta GM Scavi. Restano gravi le condizioni della bambina caduta dal secondo piano della sua abitazione a Udine 2 giorni fa, ma l'apertura delle pagine di cronaca del capoluogo friulano parlano di sanità. ASUFC assegna altri 32 facenti funzioni che si aggiungono ai 40 già in servizio, insorgono i sindacati. Sul Gazzettino del Friuli il titolo d'apertura e anche qui sulla emergenza incendi, il fuoco dal mare alle montagne, poi la cronaca, friulano 35enne esce dal carcere e muore, giallo a Vicenza, quindi l'impennata degli interventi in elicottero del soccorso alpino. L'anno scorso sono stati 192, 10 anni fa erano stati 92. Infine il progetto per l'ascensore al Castello di Udine, il cantiere slitta al 2023. Anche dal Piccolo Edizione di Trieste, l'apertura dedicata agli incendi, lotta contro il fuoco tra i boschi con i soccorritori sfiniti dalla fatica, è una guerra. A Iamiano e Sabici, paesi svuotati, le nostre case in pericolo. A Trieste la paura di un blackout, corsa a comprare bottiglie d'acqua. La Via del Mare, il Delfino Verde fa la spola con Monfalcone. Oggi poi la solidarietà agli operai Varzila scende in piazza, l'appello ai cittadini tutti uniti in piazza per salvare la Varzila di Trieste. A Trieste bocciata l'urgenza alla mozione 5 Stelle in Consiglio Comunale sugli incendi, insorge l'opposizione in Consiglio Comunale. Vediamo allora il Gazzettino di Pordenone, così lo sport si prende l'ex fiera, il titolo in primo piano. Grazie a 20 milioni del PNRR l'area sarà demolita per realizzare 2 palestre, una delle quali con una piastra sul tetto utilizzabile per basket o calcetto. Moria di pesci sul canale di via Canevona Sacile, usato per irrigare, la denuncia arriva da alcuni cittadini, quindi gli spettacoli in taglio alto, migliaia di fan in delirio. Ieri sera per Johnny Depp e Jeff Beck in concerto al Parco San Valentino, la prima del Messaggero Veneto d'Orso di Pordenone, spazio anche in questo caso agli incendi e alla crisi di governo. In taglio alto la cronaca locale, quindi il progetto per la guida sicura al volante, un progetto del comune del comune capoluogo con le pattuglie, ci sarà un medico. Cresce però purtroppo l'abuso di alcol e droghe tra i guidatori, aumenta l'abuso anche tra i minorenni. Infine, i self-service dei distributori di benzina di un'azienda petrolifera italiana d'ora in poi saranno anche in dialetto. Le macchinette chiedono di inserire Ischei e di fraccare il numero della pompa. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta da Lorenzo Gherinzoni e Giorgio Beyers, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo aggiornamento con le notizie, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.